in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Meno male che veniamo dopo questa bella voce, questa bella risata di Irene Grandi, perché insomma i giornali non spingono ad altrettanto ottimismo ed allegria, perché come potete immaginare ci sono pagine di cronaca sul coronavirus, perché di questo si tratta. E infatti le scorreremo queste pagine, questi titoli di in prima pagina di tutti i quotidiani, però penso che più che altro conti, appunto, invito a seguire i GR di Radio 24 e vedere il sito di Radio 24, del Sole 24 Ore, di altri mezzi di informazione seri, perché appunto è una situazione che cambia di ora in ora. E cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, che titola: virus dal governo, misure speciali, in Italia il numero più alto di casi. Il nostro giornale è stato chiuso intorno alle 10:30, quindi appunto a proposito di cronaca poi mancano alcuni dati che sono arrivati durante la notte, come per esempio la cancellazione di alcune partite di calcio, la cancellazione addirittura di alcune sfilate qui a Milano, però appunto per questo è una situazione in piena evoluzione. Il Sole 24 Ore dedica le prime 5 pagine a questa emergenza, con approfondimenti secondo me molto utili e razionali sulle conseguenze. Quindi per esempio a Milano, altra notizia di ieri, è stata rinviata una fiera, non è la prima che viene rinviata in questo periodo, è la fiera degli occhiali Mido, che è la più importante al mondo, avrebbe dovuto iniziare sabato prossimo, il 29 di febbraio, rinviata. Ci sono molte aziende che hanno già previsto una facilitazione, un incoraggiamento del lavoro a distanza, il cosiddetto smart working. E poi c'è naturalmente tutto il tema delle forniture, perché ci saranno sicuramente delle scadenze che non si sarà in grado di onorare, quindi consigli molto pratici. E domani sul Sole 24 Ore del lunedì, diviso per settori, anche naturalmente la grande attesa per l'apertura dei mercati domani, e poi appunto l'analisi settore per settore delle conseguenze di questa epidemia globale. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche l'intervista di Marco Ferrando, che è il responsabile della sezione finanza del Sole 24 Ore, ad Angelo Radici, presidente del gruppo UBI, che sapete ha ricevuto una OPS, cioè un'offerta pubblica di scambio di azioni, quindi una cosa un po' diversa dall'offerta pubblica di acquisto. E non è da parte di Banca Intesa, che è il più grande istituto bancario italiano, non è chiaro se alla fine l'operazione si farà, perché ci sono alcune resistenze. Per esempio appunto Angelo Radici dice no al piano Intesa, UBI può fare da sola. Poi in teoria non potrà decidere né lui né l'amministratore legato, ma dovranno decidere gli azionisti, però appunto vedremo, perché ci sono già alcune prese di posizioni molto chiare. Vi dicevo quindi fino a pagina 5, la pagina 2 dedicata alle conseguenze sui lavoratori. Per ora sì, ci saranno soprattutto in Lombardia e Veneto, le due regioni dove ci sono più contagi e anche più vittime. CIGO, smart working per le imprese, Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci raccontano appunto le possibilità a pagina 2. E poi c'è anche una conseguenza in realtà sul prossimo G20, o meglio sul G20 in corso a Riyadh. L'allarme domina il G20, sì, subito stimoli per l'economia. L'epidemia di Covid-19 ha monopolizzato il dibattito di governatori e ministri delle finanze al G20 che si è tenuto a Riyadh in Arabia Saudita. E poi un approfondimento sulla questione invece dei rapporti tra coronavirus e investimenti. Abbiamo detto oggi borse chiuse ovunque, ma vedremo domani alla riapertura dei mercati. Andrea Franceschi, pagina 5 del Sole 24 Ore, la scommessa dietro alla corsa ai fondi bond. Il boom di sottoscrizioni è legato agli interrogativi sulla evoluzione della crisi. e poi anche approfondimenti dagli altri paesi. In Asia l'emergenza, come sapete, si è spostata dalla Cina alla Corea del Sud. Poi c'è il grande tema dell'Africa, l'Africa al centro delle attenzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi anche la preoccupazione dell'imperatore del Giappone in vista dei giochi delle Olimpiadi estive di Tokyo. Il Corriere della Sera titolo a tutta pagina e 17 pagine dedicate all'emergenza coronavirus. Lo dico adesso, tanto credo che traspaia anche dal mio tono. L'epidemia da coronavirus causa un tipo particolarmente aggressivo di polmonite, però la polmonite in Occidente è una malattia curabile, a meno che, naturalmente, come dimostrano del resto, per esempio, la notizia con cui forse io addirittura avrei aperto i giornali oggi, cioè della guarigione del paziente allo Spallanzani e del miglioramento delle condizioni dei due pazienti cinesi. Quindi la polmonite, tranne a meno che non colpisca o non venga, non colpisca pazienti già particolarmente deboli, avrete visto che la maggior parte delle vittime sono persone anziane. Quindi o colpisce pazienti molto deboli oppure non viene identificata per tempo, cosa che suppongo avverrà con tutte queste misure che sono state messe in campo. Questa malattia non è letale. Si sta lavorando a un vaccino, tra l'altro, come vedremo anche in altri interventi. Intanto, appunto, vi segnalo la pagina del Corriere della Sera, una cintura per isolare il virus. Ecco, la seconda cosa che volevo dire è che abbiamo questi bollettini: seconda vittima in Italia, contagiati in Italia sono 76. Mi piacerebbe vedere un bollettino simile per i contagiati, per esempio, da influenza durante questa stagione, e anche i morti per influenza, perché l'influenza fa morti in Italia e in tantissimi altri paesi, per le stesse ragioni che abbiamo detto prima. Cioè che se colpisce persone con un sistema immunitario già debole, come a volte sono gli anziani o altre categorie di pazienti, o non viene curata o magari non ci si vaccina. Tra l'altro noto l'assenza in questi giorni dei Novax, non parlano, che strano. Quindi anche l'influenza fa vittime. Detto questo, la prima pagina del Corriere della Sera è tutta dedicata, non c'è un solo articolo tranne la rubrica di Aldo Grasso, Padiglione Italia, che è dedicata al ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Non c'è un solo articolo non sul coronavirus, e sono, come vi dicevo, 17 le pagine dedicate, più quelle della sezione di Milano. Stessa cosa per la Repubblica, Nord, paralisi da virus. Appunto, ci sono tantissimi approfondimenti. Qui però in prima pagina qualche articolo non sul virus c'è, a parte il consueto editoriale di Eugenio Scalfari, la morale è la forza che tutela i nostri ideali. E ci sono altri tre articoli. Uno è un approfondimento di Francesca Cafferri sulla vicenda di Patrick Zaki, lo studente egiziano che in realtà è tornato in Egitto dall'Italia, dove studiava all'Università di Bologna, e al suo arrivo in Egitto è stato arrestato, e ora il secondo verdetto di un tribunale del Cairo, Patrick Zaki deve restare ancora in cella. Poi un articolo di Manuela Audisio che ricorda come domani a Los Angeles ci sarà il commiato finale a Kobe Bryant, l'ultimo Kobe e il funerale nel suo tempio. E poi un approfondimento di Sergio Rizzo sul fatto, e questa è veramente una cosa che dovrebbe indignarci profondamente, sul fatto che sono passati 5 mesi da quando Raffaele Cantone, presidente dell'anticorruzione, ha lasciato il suo incarico, non è ancora stato sostituito. Con la Repubblica, come ogni domenica in edicola all'Espresso, questa settimana la copertina si intitola Gli illusionisti. Si scambiano parlamentari, si contendono il palcoscenico, si fanno la faccia feroce tra minacce e bluff. Chi sarebbero? Matteo Renzi e il premier Conte, che nascondono le loro debolezze e spianano la strada a Salvini. Questo secondo l'Espresso. Poi all'interno c'è un reportage dalla Libia, la guerra infinita, 9 anni, sono passati 9 anni dall'uccisione di Gheddafi. La Stampa, anche in questo caso, tutta la prima pagina è dedicata al coronavirus. Virus, l'Italia si blinda. Al coronavirus è dedicato anche l'editoriale di Maurizio Molinari. Tra l'altro molti la Stampa ha in corso un contenzioso con la società che la proprietaria della Stampa e con lo stesso direttore, quindi molti articoli non sono firmati, è una forma di sciopero bianco che forse non tutti conoscono, ma che appunto a volte viene attuata nei giornali. C'è però un interessante intervento di Ilaria Capua che si intitola "Ora bisogna arginare il Covid-19 e suggerisce due cose: il telelavoro, appunto il cosiddetto smart working, e anche le lezioni via Skype. Sapete, forse avrete sentito che per esempio le università della Lombardia hanno sospeso le lezioni fino a salvo ulteriore rinvio fino al 29 di febbraio. Quindi a partire dalla prima settimana di marzo dovrebbero riprendere. E poi anche Linus che dice: perché ho cancellato la festa di Radio DJ. Il Messaggero: città chiuse per isolare il virus. Poi, siccome sappiamo, abbiamo detto che l'emergenza maggiore in questo momento è in Veneto e in Lombardia, poi in realtà il Messaggero mette anche due temi che riguardano da vicino Roma. Da una parte appunto quello che è successo allo Spallanzani, quindi la svolta dei due cinesi a Roma, salvi mentre l'infezione avanza, i due cinesi ricoverati allo Spallanzani, e poi un approfondimento sull'omicidio del carabiniere Cerciello, illegali dagli Stati Uniti, il video della discordia ignorato dai PM, quindi aggiornamenti su questa inchiesta. L'Avvenire ha secondo me il titolo più interessante, che è "Prudenza e unità contro virus e paura. Il coronavirus provoca due morti, una sessantina di contagiati tra Lombardia e Veneto, chiuse le università, abbiamo visto alcune scuole, casi sospetti a Milano". E l'Avvenire, forse anche il Quotidiano, insieme al Manifesto direi, che ha più articoli anche su altri temi. Il Giorno, la grande paura, con anche qui tantissime pagine dedicate alle varie misure da prendere. In questo caso vi consiglio due fonti ufficiali: da una parte il sito della Regione Lombardia, dove è molto chiaro il decalogo, e dall'altra, naturalmente, per chi volesse, il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi abbiamo il Giornale: il Nord chiude a caratteri cubitali, due contagi a Milano e panico. Poi c'è il virgolettato del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che per ora non ha disposto quarantene ma ha detto limitare i contatti sociali, la socialità, atenei chiusi, governo pronto a vietare le attività lavorative. Sapete che ieri sera c'è stato un consiglio dei ministri Fiume, non ci sono per ora misure così drastiche, però il premier Conte ha lasciato intendere che potrebbero anche essere attuate a seconda appunto delle notizie che arrivassero nelle prossime ore. E poi il tema del cosiddetto paziente zero, cioè quello che viene il termine con cui si indica in virologia il paziente da cui è iniziato il contagio, il buco nella rete dei controlli, non si trova il paziente zero. Il Giornale, anche in questo caso in proporzione forse sono ancora di più le pagine del Giornale dedicate al virus, perché sono 14, ma il Giornale ha meno pagine per esempio del Corriere della Sera o di Repubblica, quindi forse in proporzione sono ancora di più. Noi ci lasciamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. È la festa del gatto, tu pensa agli amici e noi al menù. Inizierei con le crocchette Royal Canin Cat Fit 32 da 2 kg a €15,90. Poi una degustazione di lattine gourmet gold da 85 grammi a 39 centesimi l'una. E dulcis in fondo, la selezione super premium Virtus. E per i cani abbiamo tante offerte anche per loro. Ma affrettati, le promozioni scadono il 23 febbraio. Ah, grazie. Allora No, scusi, parlavo con Lea. Ogni giorno 1000 promozioni da Arca Planet. Pet Store, Pet Stories. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisys. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisys. Omnisys. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisys.it. Come sarà l'auto del futuro? Avrà fari che sembrano i denti di un leone. E funzionerà a benzina? Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio così. Ma non si sente nulla. Esattamente. Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208. A febbraio da 139 euro al mese. TAN 4,99 TAG 6,88. Salvo approvazione Banca PSA Italia. Info su Peugeot.it. Scopri la benzina, diesel o elettrica. Anche domenica. Peugeot. Sei un agente di vendita con esperienza nel settore e cerchi nuove sfide in una delle realtà italiane d'eccellenza? Invia il tuo curriculum a cvprofessionisti@ilsole24ore.com ed entra da protagonista nella squadra commerciale de Il Sole 24 Ore. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio 24 da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Poche novità, quindi buone notizie, perché la massiccia presenza dell'anticiclone sta raggiungendo il top proprio in questo weekend, portando sole prevalente con solo qualche locale annuvolamento, ma soprattutto temperature sopra media. Ci attende quindi una domenica con un ulteriore rialzo termico rispetto alle precedenti 24 ore, soprattutto sulle regioni dell'estremo sud. Il rialzo sarà sensibile infatti lungo l'Adriatico, dove si potranno raggiungere anche i 20 gradi. Poi prime avvisaglie di un cedimento della cupola anticiclonica le avremo martedì grasso per l'avvicinamento di un fronte freddo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre vi ricordiamo di scaricare e consultare in tempo reale l'app di 3B Meteo. Tiscali ti augura una buona connessione. Con Tiscali hai la fibra fino a 1 giga in promo online a soli 25,95 euro al mese con chiamate incluse, modem super wifi e attivazione gratis. Offerta soggetta a limiti geografici. Vai su tiscali.it o chiama il 130. Tiscali, on life. Guidare la nuova BMW Serie 1 ti fa sentire... Perché grazie al volante in pelle M Sport, al cambio automatico a doppia frizione e all'assetto sportivo M, dirai... Bella atmosfera, non mi uccidere il mood, e quando selezioni la modalità sport, chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good. Scoprila in tutte le concessionarie BMW. Ho un'impresa e penso a te. Mi dà tassi e penso a te. Mi ritassi e penso a te. Poi mi tassi anche le tasse e penso a te. Ti accanisci e penso a te. Mi prendi tutto e penso a te. Fisco, mi fai disperare. Non riesco più a campare. E contro la tua ostilità io sarò CNA. Ah! Essere CNA ti conviene. Ti difendi dal tartasso, risparmi tempo e sei più contento. Entra in CNA. Vieni su essere.cna.it. Per me il surf è la vita. Si tratta sempre di trovare il momento giusto. Niente mi fa sentire come quando cavalco le onde dell'oceano sotto zero o quando torno a casa, al caldo, nel mio salotto. Questo è il mio momento. Scegli il massimo del comfort. Sostituisci la tua caldaia con una condensazione Vaillant e avrai 7 anni di garanzia in omaggio. Chiama l'800-123-916 o vai su Vaillant.it per chi cerca un momento per sé, soprattutto dentro casa. Vaillant. Comfort for my home. Nel 2016 sono stato condannato per omicidio. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatori, innanzitutto per l'ascolto e poi anche a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, all'ascoltatore in particolare che dice: non le sembra che dire che l'influenza fa morti più del coronavirus assomigli molto a dire che in fondo abbiamo criminalità e spacciatori italiani, quindi facendo sbarcare clandestini in fondo cambia poco? No, non mi sembra assolutamente che sia la stessa cosa. E lo ripeto ancora una volta, l'influenza che spesso viene dopo che si è contratto il virus, la polmonite batterica che spesso viene dopo che si è contratto il virus dell'influenza, per esempio, si potrebbe prevenire vaccinandosi tutti. E lo ripeto ancora una volta, non vedo i Novax fare dichiarazioni in questi giorni. E poi prosegue l'ascoltatore: come dire, ho una gamba rotta e faccio di tutto per rompermi l'altra. Ma assolutamente no, proprio non volevo assolutamente dire questo, anzi, appunto, sappiamo che da una parte c'è la polmonite batterica, quella più diffusa, quella più comune, e poi c'è la polmonite virale, come fu la SARS e come è questa causata dal coronavirus, per chi avesse sintomi influenzali gravi o appunto che fanno pensare a una polmonite, certo, rivolgersi immediatamente al proprio medico, quindi no, non pensare assolutamente che siccome ha già una gamba rotta meglio rompersene un'altra. E non so come possano venire queste interpretazioni di quello che dico, evidentemente, però qualche errore lo faccio nell'esprimermi se porto a simili fraintendimenti. In ogni caso, non volevo dire questo, volevo solo dire stiamo calmi. Ci sono malattie più gravi, sicuramente qui fa paura perché non abbiamo ancora informazioni certe su come si diffonde il contagio, per esempio in Lombardia il famoso paziente zero. Benissimo, ho invitato tutti a tenersi informati ora per ora, ma appunto a non farsi prendere dal panico. Il Fatto Quotidiano: virus Nord Italia in stato d'assedio. E poi il Fatto Quotidiano ha anche altri articoli richiamati in prima pagina, soprattutto politici. Si torna sul risico delle nomine, sapete che devono essere fatte in primavera molte nomine importanti, e su questo ci sono molte illazioni da giorni peraltro del Fatto Quotidiano, per esempio sul fatto che De Scalzi venga riconfermato all'ENI, Stefano Feltri conduce una sua personale battaglia contro De Scalzi, quindi anche oggi ci torna. De Scalzi all'ENI, ora il governo risponda in aula. Poi c'è la vicenda della Gcom che ha comminato alcune multe alla RAI, anche su questo il Fatto Quotidiano torna. Abbiamo il Manifesto che titola: terapia intensiva, i contagi in Italia salgono a 60 tra Lombardia, Veneto e Piemonte, due le vittime, giallo sul paziente zero, quello che dicevamo. Poi in prima pagina il Manifesto sceglie anche di approfondire la vicenda di Patrick Zaki. Al-Sisi non cede, Al-Sisi il presidente dell'Egitto, Zaki resta in cella. E poi approfondimenti anche sempre sulla politica, quindi per esempio supplettive a Napoli, urne aperte, sfide tra Sandro Ruotolo, candidato del PD, e i 5 Stelle per un posto al Senato. E poi anche la questione delle regionali in Toscana, perché in questo momento la destra è ancora senza un candidato, quindi anche lì questioni politiche. Vi segnalo, lo trovate ancora in edicola perché è un settimanale, il Foglio di ieri che ripubblica, possiamo dire, ma naturalmente è un testo fuori diritti a questo punto, una parte del libro più famoso di Alessandro Mazzoni, Promessi Sposi, che anche un po' viene identificato come il primo romanzo dell'italiano. Sull'esempio invece in Inghilterra erano usciti i libri di Walter Scott, e naturalmente, come sapete, nei Promessi Sposi si parla anche della peste che colpì alcuni paesi europei e anche l'Italia nel 1630. È veramente interessante rileggere alcuni passaggi di questo brano scelto dal Foglio. Manzoni alla peste del 1630, la verità, il pubblico spavento, contagio e pregiudizio. Il paziente zero, pensate, appunto, davvero è incredibile rileggere queste pagine. La stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste. I medici che cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I magistrati che principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi della sanità. E questo è appunto sul Foglio, che ripeto è l'edizione del sabato, che è un settimanale, quindi chi volesse o chi fosse abbonato all'edizione digitale lo può leggere ancora per tutta la settimana. Torniamo al Sole 24 Ore, perché tra gli altri fatti di oggi registrati c'è per esempio quella serie che si chiama Rating 24, che significa andare a fare un po' di fact checking e di number checking soprattutto alla politica, e qui parliamo di tutto quello che è stato fatto da questo governo. Conte 2 fermo nelle attuazioni, 2 decreti su 169, 22 scaduti. Già in ritardo anche l'implementazione della legge di bilancio 2020, mentre passi avanti riguardano l'approvazione dei provvedimenti previsti alle leggi del Conte 1. Verrebbe da dire, ci mancherebbe altro, è il governo precedente. Quindi questo tema di come in Italia comunque le cose procedano sempre molto lentamente, perché c'è questo meccanismo dei decreti attuativi, appunto trovate tutto a pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi. Vi dicevo, l'intervista al presidente di UBI, Angelo Radici, di Marco Ferrando, la trovate a pagina 9. Radici e il no a Intesa, UBI può fare da sola, rischi per il credito. UBI, lo ricordiamo, è comunque un grande gruppo bancario, ha un fatturato da 1,2 miliardi e Radici dice anche: non ci interessa il prezzo ma il valore creato nel lungo periodo. E poi, come ogni domenica, la pagina di Sport e Business, questa settimana è dedicata al ciclismo, in particolare Australia, Emirati, Canada e Cina, il ciclismo è sempre più globale. Poi la sezione Lifestyle, la copertina è dedicata a questo fenomeno, ce lo racconta Giambattista Marchetto, dei vigneti urbani. Si chiama UVA, Urban Vineyard Association, la prima rete nata per tutelare questo patrimonio storico prezioso e incentivare l'enoturismo culturale. E poi, a proposito di patrimonio culturale, Vera Viola, nella seconda pagina di Lifestyle, c'era una volta la Reggia. Quale Reggia? La Reggia di Capodimonte. Oggi è un hub per arte, sport e digitale. Pensate, il bosco di 134 ettari è aperto al pubblico, il museo ha 47.000 opere e 105 milioni da spendere. Ma anche un allarme lanciato dal presidente della Reggia, che dice: manca il personale. La terza pagina di Live si è dedicata alle sfilate che sono ancora in corso, come vi dicevo, quella di Armani, che avrebbe dovuto tenersi oggi, verrà fatta a porte chiuse, quindi verrà poi trasmessa in streaming. Per ora sulle altre non ci sono notizie di slittamenti, quindi intanto c'è la cronaca di Angelo Flaccavento dalle passerelle di ieri, che naturalmente trovate anche sugli altri giornali, ma mi fa piacere segnalarla dal Sole 24 Ore, ripeto, una pagina intera. E in particolare ieri in passerella Salvatore Ferragamo, Agnona, era la prima volta che sfilava, e Bottega Veneta, con veramente delle immagini bellissime di questi vestiti che, lo ricordiamo magari per chi non segue con particolare attenzione le sfilate, in realtà sono le collezioni del prossimo autunno-inverno. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento sul caucus del Nevada, primarie del Nevada, e che nel Nevada, insieme ad altri 5 stati, hanno una forma particolare, da qui il nome caucus, ma di questo si tratta, cioè sono delle procedure per scegliere il candidato democratico. Il Corriere della Sera da Sanders verso la vittoria in Nevada. In realtà ho visto nella notte le notizie del Los Angeles Times che in realtà, appunto, Sanders ha vinto queste primarie, Bernie Sanders. E poi un approfondimento sulle elezioni in Iran, si è votato anche lì. A pagina 21, anche sul Sole 24 Ore, c'è un articolo di Riccardo Barlam, vi segnalo questo dal Corriere della Sera. Viviana Mazza, inviata a Teheran: le mani dei duri sull'Iran, spazzati via i riformisti. Pensate che i conservatori sono avanti 191-16. E poi un aggiornamento sulla vicenda della Megxit, cioè della decisione presa dal principe Harry e da sua moglie Meghan Markle di lasciare il Regno Unito, magari comunque tornarci, ma avere una residenza permanente probabilmente in Canada, e anche tutte le conseguenze del non essere più ufficialmente vincolati agli impegni da reali. E qui c'è questo aggiornamento: giù le mani dal marchio reale, la regina ferma Harry e Meghan, ma gli affari non mancheranno. Il logo Sussex Royal, loro sono i duchi di Sussex, è stato negato alla coppia. Hanno avuto però un via libera a tenere discorsi e a fare pubblicità. Dalla Repubblica invece vi segnalo un'intervista a Elena Janecek, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura e adesso non mi ricordo in che anno, comunque qualche anno fa, e conosce molto bene la Germania naturalmente, e quindi prendendo spunto dal massacro a Hanau dei pochi giorni fa. Hanau è una piccola città vicino a Francoforte. Sapete che quest'uomo bianco, che in realtà poi si è saputo non soltanto aveva delle teorie da suprematista nazista bianco, ma secondo i medici che lo avevano in cura era anche affetto da schizofrenia. In ogni caso ha fatto una strage in due bar frequentati da persone di origine turca di prima o seconda generazione e di religione musulmana, e da questo fatto di cronaca di terrorismo interno prende spunto Tonia Mastrobuoni, che appunto intervista Elena Janecek e dice la Germania nasconde le sue paure e così rinasce il razzismo. Hanno fatto i conti con la storia, con il nazismo, ma senza ammettere emozioni. Però l'estremismo di destra oggi è un fenomeno mondiale, non solo tedesco. Vi dicevo a pagina 23 il lungo racconto di Emanuela Audisio sul funerali che ci saranno oggi, la commemorazione in realtà di Kobe Bryant. Bryant torna a casa, l'ultimo abbraccio nel palazzo del re. E poi, prima di lasciarci un attimo per una pausa sul traffico, vi segnalo dalla Stampa invece un approfondimento. Si è parlato molto degli effetti del riscaldamento globale sulla stagione sciistica, e questo è un reportage da Carezza: cannoni green e gatti col GPS, così abbiamo messo in pista innovazione e sostenibilità. E ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. Strade in diretta. Ancora ben ritrovati, si verificano code per un incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Cesalto e San Donà di Piave verso Torino a causa di un incendio. La linea ferroviaria Milano-Alessandria è interrotta al momento a Pavia e in corso l'intervento dei vigili del fuoco. È tutto, a più tardi. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Alcuni ascoltatori mi invitano a non leggere i messaggi. In realtà secondo me è utile sia a me, naturalmente, perché a volte appunto mi pongo il dubbio, ma sono stata chiara o sono stata fraintesa, o forse io stessa non ho le idee chiare se non riesco a esprimermi in modo chiaro. Quindi io non colgo sempre questo invito a non leggere questi messaggi così critici. E per esempio c'è un signore che non si firma, il suo logo è il coniglietto di Playboy, che dice: insomma, mi pare di capire che il coronavirus è un'influenza del C e che addirittura è meglio non parlarne, ma questa ci fa o ci è. Questo è il tono di alcuni messaggi che, ripeto, mi lasciano perplessa, e quindi, siccome questa è una rassegna stampa fatta da una persona e non da un computer, quindi con tutta anche l'emotività del caso, specie di fronte sicuramente a un'epidemia globale che sta scatenando paure e reazioni globali, uno sui tanti che arrivano ogni tanto lo leggo. Vi segnalo dalle pagine interne del Messaggero un aggiornamento sulla questione Atlantia. Atlantia è la società che ha in concessione la maggior parte della nostra rete autostradale, lo sapete, è controllata dalla famiglia Benetton, ma è una società quotata in borsa. Atlantia, pressing, tesoro, fondazioni su cassa, depositi e prestiti, perché tra le ipotesi, se ci fosse una revoca di questa concessione, naturalmente qualcuno deve subentrare, quindi ci può anche essere un riassetto societario. Da qui l'aggiornamento che trovate a pagina 17 del Messaggero. Dall'Avvenire invece vi segnalo un interessante approfondimento sul dopo Brexit. Abbiamo parlato in questa settimana delle prime indiscrezioni su come saranno le nuove regole per l'immigrazione per chi desidera entrare nel Regno Unito, e in questa pagina appunto di Avvenire il sogno inglese non è più alla pari. Ora però avevo messo da parte anche alcuni altri approfondimenti, ma ci tengo a passare ai supplementi domenicali, cominciando come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal Breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Reputazione. La citazione è questa: preoccupati più della tua coscienza che della reputazione, perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te, e quello che gli altri pensano di te è un problema loro. È Charlot, l'omino coi baffetti e la bombetta, eternamente afflitto dalla sorte, eppure nobile nella sua libertà e dignità umana, a esprimere questo monito attraverso la creatività del suo autore, Charlie Chaplin. Nessuno può confessare di essere del tutto indifferente al giudizio degli altri. Mi verrebbe da dire, davvero, vedete che anch'io sono forse un po' ipersensibile ai messaggi, soprattutto quelli negativi, o meglio, mi fanno molto piacere anche quelli positivi, ma non preferisco non leggerli. Ma intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che appunto mandano questi messaggi positivi. Prosegue Ravasi. Anzi, alcuni si consumano nel sospetto di essere giudicati negativamente. Ho conosciuto politici o scrittori che avevano la giornata devastata se al mattino scovavano in una remota colonnina di giornale una critica aspra nei confronti delle loro scelte o delle loro opere. Altri invece escludevano ogni lettura che li riguardasse per il terrore di sapere che la loro reputazione era ferita. È un'esperienza umana comprensibile, soprattutto se si tiene conto dell'aggressività verbale della rete e della volgarità dei nostri giorni. A questo margine vale però anche questo motto nei dialoghi di Confucio: non preoccuparti del fatto che la gente non ti stima, preoccupati invece del perché non meriti di essere stimato. La copertina vera e propria però è affidata a Luigi Sanpietro e il titolo è Gangster e sparatorie, questa sì che è vita, ed è tutta dedicata agli anni 20. In Francia li chiamarono folli, in Germania d'oro, un po' ovunque ruggenti, in inglese the roaring twenties. Ma furono gli States appunto a rubare la scena con un mix di modernità e violenza, di libertà e proibizionismo. E poi c'è tutta una serie di indicazioni di film o di libri ambientati proprio in quegli anni. Naturalmente Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald è una dei tanti romanzi su quella che appunto erano i Roaring Twenties, ma anche definiti l'età del jazz. E poi a pagina 2 del Domenicale un bell'articolo di Ugo Tramballi, è una notizia che abbiamo dato e che comunque qui viene riraccontata con lo stile e l'intelligenza di Ugo Tramballi, ed è la chiusura nel Newseum, cioè il museo delle news. Era a Washington e ha chiuso nell'era delle fake news. Sono ora in un magazzino i pezzi storici del museo. Non ha retto alla crisi e al discredito che Trump ha riversato sulla stampa. Questa naturalmente è un'interpretazione, ma la notizia è comunque che appunto questo museo è stato chiuso. Vi segnalo anche una lunga recensione di Mauro Ceruti al libro di Luciano Flori di Pensare l'infosfera, pubblicato da Raffaello Cortina, Una tecnologia che ci ferisce. L'ultimo saggio di Luciano Flori è un appassionato manifesto per una filosofia dell'informazione, a proposito appunto di giornali e di informazione più in generale, in un mondo dove l'uomo ha perso la sua centralità. Un approfondimento interessante di Gabriele Neri sull'architettura, cattedrali in terra d'Africa. La modernizzazione della Costa d'Avorio negli anni 70 portò alla realizzazione di notevoli edifici di famosi architetti italiani, oggi molto degradati, ed è un peccato, insomma, un pezzo di storia dell'architettura. Invece Cristina Battocleti da Berlino ci racconta il Festival del Cinema di Berlino, la Berlinale, che è la 70esima edizione. In concorso il bel film di diritti su Ligabue, Luciano, sul pittore Ligabue, con un bravissimo Elio Germano, Intelligenti e leggeri gli amori di Garrel, mentre Zhang Ke parla della Cina sotto scacco del coronavirus, quindi il cinema già al passo con la cronaca. La lettura, come sempre, affida la copertina a un artista, questa settimana è Marina Gasparini. Poi dall'interno vi segnalo un interessante articolo di Telmo Pievani dolorosa ma forse benefica, Darwin riabilita l'ansia. Si parte da questo libro appena pubblicato da Bollati Boringhieri di Randolph Ness, Buone ragioni per stare male, la nuova frontiera della psichiatria evoluzionistica. Anche le malattie dell'anima, scrive Telmo Pievani, portano con sé tracce dei processi di adattamento descritti dallo scienziato britannico, naturalmente Charles Darwin, l'autore della famosa teoria sull'evoluzionismo. Il medico e terapeuta Randolph Ness lo teorizza sistematicamente, forse esagera, ma c'è del vero. E poi questo articolo imperdibile, ma anche libro imperdibile per me, il libro è di Terry Rudolph, che è il nipote di Erwin Schrödinger, che ha appena pubblicato questo saggio da Adelphi che si chiama Quanti, il gatto morto è vivo, la fisica quantistica è qui. Perché il riferimento al gatto? Non è solo per quello che il libro mi interessa, perché Erwin Schrödinger è famoso anche per questo paradosso, il gatto di Schrödinger appunto, che durante un esperimento si trova in una condizione impossibile nel mondo macroscopico, ma nel mondo infinitamente piccolo, quindi ancora un saggio di divulgazione sulla fisica quantistica, che naturalmente per chi fisico quantistico non è difficile da comprendere. Il Robinson del supplemento culturale settimanale della Repubblica in edicola da ieri, tutto dedicato all'ipocondria. Ipocondria canaglia. Non è una patologia, sono tutte, non c'è cura, è uno stato d'animo, i malati non troppo immaginari ai tempi del coronavirus, con tanti approfondimenti. E poi, anche questo è un libro che sicuramente mi comprerò, è un libro di Bernard Friot che viene recensito, viene anticipato su Robinson. Bernard Friot è un insegnante e scrittore per bambini, considerato un po' il vero erede di Gianni Rodari, di cui quest'anno tra l'altro si celebra il centenario della nascita. Aiuto, le cose parlano, storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni, appena pubblicato dal Castoro. E appunto è divertente, è un libro per bambini, ma come tanti libri per bambini credo possa essere godibilissimo anche per gli adulti. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e per aver mandato dei messaggi. Tra l'altro vi ricordo che per chi volesse comunque questa trasmissione, come tutte le trasmissioni di Radio 24, si trovano anche sul sito, si possono riascoltare in podcast. Ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli. Luna dopo luna scorre il tempo, il profumo diventa più intenso, il gusto più elegante, il colore più caldo. Ecco le 18 lune, l'arte del sapere aspettare. Grappa Stravecchia alle 18 lune di Marzatro. Ci sono case con un passato e altre che vivono già nel futuro. Case in cui è bello tornare e case da cui si è sempre pronti a partire. Ogni casa è diversa perché è fatta da chi la vive. Chiedi agli agenti Cattolica Assicurazioni di Active Casa e Persona per proteggere la tua casa e il tuo mondo a tutto tondo. Cattolica Assicurazioni, pronti alla vita. Prima di sottoscrivere, leggere il set informativo su cattolica.it. Ultima ora! Il gatto tigro prende casa al Colosseo in barba ai gladiatori. Basta fake news! Con Monge Grill vai sul sicuro anche i parioli alla garbatella. I nostri bocconcini sono grigliati al forno e preparati con carne di qualità. Monge Grill è made in Italy e formulata senza cereali. Sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro, dentro e fuori dal grande raccordo anulare. Siamo nel 1967, quando grazie ad Ampelio Constantin prendeva forma quella che oggi è diventata una solida realtà, la Constantin S.P.A. Il mondo da allora è cambiato e noi con lui, ma i nostri principi no, sono rimasti gli stessi. Cortesia, qualità dei servizi e un unico obiettivo, la soddisfazione di voi clienti. E solo grazie a voi, che tutti i giorni ci scegliete, questa è diventata una storia di successo. E lasciamo pure che gli altri ci chiamino pazzi. Stazioni di servizio Constantin. Fermarti ti conviene. Da un seme crescono frutti, idee e sogni. Vuoi acquistare un'azienda agricola? Oggi puoi farlo grazie a Banca Nazionale delle Terre Agricole. Iniziativa dell'ISMEA, ente economico del Ministero delle Politiche Agricole. Trasparenza e zero burocrazia. Tre semplici passaggi. Scegli la tua terra fra 387 aziende e 10.000 ettari di terreno. Invia la tua manifestazione di interesse e partecipa alla vendita. E se sei un giovane, sono previste agevolazioni. Vai su ismea.it. Hai tempo fino al prossimo 19 aprile. Banca Nazionale delle Terre Agricole. Semi- seminiamo il futuro. Le due squadre sono in campo. I motori a benzina vanno all'attacco con prestazioni straordinarie, ma i motori elettrici sono in contropiede con emissioni zero. Ma vai alla Moviola! Con Grandland X passi da benzina elettrico quando vuoi. Opel Grandland X ibrido plug-in, anche diesel e benzina da 19.900 euro, sabato e domenica. Info su opel.it. Centro de Software, die beste ERP für italienische Unternehmen. Non serve un software gestionale tedesco per un'impresa italiana che vuole diventare grande. L'ERP di Centro Software gestisce CRM, pianificazione, produzione, MES, logistica, supply chain, controlli qualità, finanze, amministrazione ed è anche interconnesso con gli impianti produttivi per Industry 4.0. Scopri l'ERP ideale per la tua impresa su centrosoftware.com. Centro Software, il migliore ERP per le imprese italiane. DarioRomanoEstensibile.it. Dal 1981 nel settore dell'imballaggio. Bobine di film estensibile di qualsiasi peso, spessore e colore. Qualità, servizio, prezzo. DarioRomanoEstensibile.it. Radio 24 e Il Post ti invitano a un doppio appuntamento nelle concessionarie Renault, dal vivo e in diretta con il pubblico. Dalle 17 alle 18 l'appuntamento giornalistico a cura di Luca Sofri con Spiegato Bene Live e dalle 18.30 l'attualità senza tabù e senza censure della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossima tappa, Bari, il 3 marzo presso la concessionaria Renault Renauto. Per partecipare iscriviti subito su lazanzaratour.renault.it. GR24, il sole 24 ore. Misure speciali per l'allarme coronavirus. Conte impedire l'allontanamento dai focolai di infezione. 76 positivi in 5 regioni, il picco in Lombardia. In regione università chiuse fino alla fine del mese. USA 2020, la sfida Trump. Bernie Sanders vince in Nevada e lancia alla volata la nomination. 25esima di Serie A, la Juventus riparte da sola. Oggi calendario dimezzato per l'emergenza sanitaria. Buongiorno da Cristina Carpinelli e dalla redazione. Sono 76 i positivi al coronavirus in 5 regioni, 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio, la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani ed una in Piemonte. I ricoverati con sintomi sono 33, 18 quelli in terapia intensiva, 2 le vittime. Questo dunque il bilancio tracciato a tarda sera dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli. Nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri straordinario che ha varato le misure d'emergenza del governo. Al termine di una lunga giornata di verifiche e aggiornamenti dati, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato un Consiglio dei Ministri straordinario che ha varato il decreto legge per isolare il contagio del coronavirus. Nelle aree focolaio, spiega Conte, bloccati ingressi e uscite. Per quanto riguarda la circolazione, abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Nelle aree focolaio sono state già bloccate le attività lavorative e le manifestazioni sportive, dice Conte, e ci saranno presidi e controlli sul rispetto delle norme contenute nel decreto. Il provvedimento inoltre amplia anche il raggio di azione. Le autorità competenti, i ministri competenti potranno anche adottare ulteriori misure. Oggi in Lombardia e Veneto il ministro dello sport ha bloccato tutte le manifestazioni sportive, mentre la ministra dell'istruzione preannuncia la sospensione delle gite scolastiche di tutte le scuole. Nei prossimi giorni, annuncia Conte, arriverà anche un nuovo decreto economico con sovvenzioni, indennizi e cassa integrazione per fronteggiare il disagio delle zone del nord Italia contagiate dal virus. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tutte le attività didattiche delle università lombarde saranno sospese fino al prossimo 2 marzo per la diffusione del coronavirus. Lo rende noto con un comunicato Remo Morzenti Pellegrini, presidente della conferenza dei rettori delle università lombarde. E nel capoluogo lombardo l'emergenza sanitaria fa i conti con l'agenda della città, decisa per ora la sospensione della fiera internazionale degli occhiali. Fiere, aziende e commercio in Lombardia alla prova del coronavirus. Da una parte il consiglio di amministrazione di Mido, la più importante manifestazione nel settore degli occhiali a livello mondiale, in programma dal 29 febbraio al 2 marzo a Milano, ha deciso di posticipare l'edizione del 2020 tra fine maggio e la prima metà di giugno a causa della crisi causata dall'emergenza del coronavirus. Dall'altra, la settimana della moda milanese prosegue tra le cautele grazie anche all'iniziativa varata dalla Camera della Moda con la piattaforma China We Are With You, che permette di seguire le sfilate anche da remoto, così Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda. Noi siamo in contatto con le istituzioni, facciamo quello che è previsto che venga fatto, manteniamo la nostra linea e in fondo la prima settimana della moda virtuale al mondo che viene fatta in questa modalità. Sta andando benissimo, abbiamo collegati nella nostra live room 11 milioni e mezzo di persone. Non c'è stata nessuna defezione, ad eccezione dei circa 1000 cinesi tra buyers, stampa e stilisti che non sono potuti venire a Milano fin dall'inizio. La soluzione virtuale potrebbe funzionare anche in futuro. È stata un'occasione brutta, ma per sperimentare qualcosa che forse sarà anche un pezzettino di futuro. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il bilancio mondiale sale a 2.461 vittime, mentre i casi confermati di contagio sono 78.766. Sono invece 23.133 le persone guarite ad oggi. L'Italia si colloca al momento al primo posto tra i paesi europei per numero di contagi nel resto del mondo, intanto mentre cala il ritmo dei contagi in Cina e allarme in Corea del Sud. Mentre rallenta il ritmo dei contagi in Cina, preoccupa la situazione in Corea del Sud, dove i contagi sono raddoppiati in due giorni e saliti a quota 433, il numero maggiore al di fuori della Cina. E dopo il caso dei 9 pellegrini sudcoreani che hanno manifestato l'infezione al ritorno da un viaggio in Terra Santa, Israele ha deciso di vietare lo sbarco ai cittadini sudcoreani in arrivo. A livello globale il bilancio dei morti è salito a 2.360, 77.662 i contagi. Nuovi casi anche in Giappone, dove continua l'evacuazione delle persone a bordo della Diamond Princess, ferma nel porto di Yokohama. In Iran, dove sono saliti a 5 i morti, 28 i contagiati, è stata decisa la chiusura di scuole, università, cinema e teatri. L'Italia si colloca al momento al primo posto tra i paesi europei per numero di contagi, seguita dalla Germania, 16 casi, e dalla Francia, 12. Solo 9 in Gran Bretagna, 2 in Spagna e 1 in Belgio, Finlandia e Svezia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torna in carcere per altri 15 giorni Patrick George Zaki, l'attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, studente all'Università di Bologna, arrestato per propaganda sovversiva su Facebook. Si è conclusa così la prima udienza sul rinnovo della custodia cautelare, in cui si è dichiarato non colpevole davanti al giudice, al procuratore e ai due diplomatici presenti in rappresentanza dell'Italia e dell'Unione Europea. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, insieme al rettore dell'Università, Francesco Ubertini, hanno sfilato in testa al corteo di 5.000 persone giovedì scorso nel capoluogo emiliano. Siamo tutti delusi, ma siamo tutti determinati a continuare a fare pressione e a manifestare perché Zaki sia liberato. Il fatto che gli abbiano rasato la testa, speriamo che non significhi che lo preparino a una lunga detenzione. Il Comune di Bologna metterà un proprio striscione, come abbiamo già fatto per i regimi, dove ci sarà scritto Zaki libero, e continueremo a coinvolgere tutti i cittadini. Bisogna muoversi insieme come europei, visto che Zaki, oltre che uno studente bolognese, partecipa a Erasmus, quindi anche uno studente europeo. Quindi voi che cosa farete ancora? La legge egiziana prevede la possibilità di rinnovare la detenzione preventiva di 15 giorni in 15 giorni. Dobbiamo anche prepararci al fatto che ci sia questa volontà di portare l'arresto, quindi vogliamo utilizzare questi 15 giorni per aumentare la pressione in tutti i modi. Bernie Sanders sbanca in Nevada e si afferma sempre più come l'anti-Trump. Il senatore vince con ampio vantaggio i caucus, porta a casa la sua terza vittoria e lancia la volata alla conquista della nomination democratica. Vinceremo in tutto il paese, dice trionfante. E adesso lo sport, con il campionato di calcio che oggi completa con 6 sfide la 25ª giornata. L'emergenza coronavirus fa irruzione anche nello sport e cancella una domenica di gare e manifestazioni di ogni grado e disciplina in Lombardia e Veneto. Il calendario della Serie A viene toccato con forza dalla decisione del ministro Spadafora, espressa nella tarda serata di ieri con una lettera al numero uno del CONI Malagò. Rinviate Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Restano in cartellone Genoa-Lazio alle 12.30, Torino-Parma alle 15 e Roma-Lecce alle 18. Il sabato degli anticipi, disputati regolarmente in A, mentre in Serie B è saltata Ascoli-Cremonese, ha lasciato in eredità il ritorno alla vittoria in trasferta della Juventus. Un 2-1 convincente a Ferrara contro la Spal con reti di Ronaldo e Ramsey, anche se dopo il rigore di Petagna, il primo deciso dal VAR senza che l'arbitro vedesse le immagini, la squadra di Sarri ha corso qualche pericolo. Tra Fiorentina e Milan è finita invece 1-1, Rebic e il rigore di Pulgar nella ripresa, con rimonta dei viola in 10 uomini per l'espulsione di Dalbert e rabbia dei rossoneri per due episodi arbitrali, un gol annullato a Ibrahimovic per tocco di braccio e il penalty decisivo per fallo di Romagnoli su Cutrone fortemente contestato. Nell'altra gara 1-1 tra Bologna e Udinese, Okaka e Palacio i marcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il britannico Tyson Fury ha battuto ieri a Las Vegas Deontay Wilder, il campione del mondo di pugilato categoria dei pesi massimi dal 2015, per KO tecnico al settimo round. Per l'americano, che difendeva il suo titolo da imbattuto per l'undicesima volta, si tratta della sua prima sconfitta. Questa era l'ultima notizia per questo giornale radio curato da Gigi Donelli e Katia Caramelli, in regia Carmelo Lauricella, in studio Cristina Carpinelli. Il GR torna alle 9. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Multimac è business partner di Zebra Technologies per la trasformazione digitale nella supply chain. Il prossimo appuntamento con l'innovazione è a Connext, 27 e 28 febbraio, Milano Convention Center. Info su multimac.it. Come sarà l'auto del futuro? Avrà fari che sembrano i denti di un leone. E funzionerà a benzina? Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio così. Ma non si sente nulla. Esattamente. Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208. A febbraio da 139 euro al mese. TAN 4,99 TAG 6,88. Salvo approvazione Banca PSA Italia. Info su Peugeot.it. Scopri la benzina, diesel o elettrica. Anche domenica. Peugeot. Che stabilimento, ecco perché la manifattura italiana è la seconda in Europa. Complimenti! Grazie, ma per crescere dovremmo investire di più. Hai già chiesto a Gruppo Finservice? Mi hanno fatto ottenere i miei primi contributi a fondo perduto. Hanno 300 consulenti e ogni anno aiutano migliaia di aziende manifatturiere italiane ad accedere a tutti i contributi a fondo perduto che aspettano solo di essere richiesti. Ma ne avremo diritto? Vedrai che vi spettano. Chiedi conferma a Gruppo Finservice. Da 20 anni leader nella finanza agevolata. Gruppo Finservice. Zero promesse, più contributi. GruppoFinservice.com. Entrano le grandi marche alla Coop. Stendiamo il tappeto rosso allo scegli tu. Da Coop fino al 4 marzo. Scegli tu tra tutti i prodotti delle grandi marche in promozione, scontate del 30, 40 o 50%. Verifica le modalità in punto vendita e su ecoop.it. La Coop sei tu. Nel 2016 sono stato condannato per omicidio. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. I lavori di domani, di Anna Marino. Il DNA delle imprese sta cambiando, ma sta cambiando anche il mondo in cui si devono muovere, dal climate change al rischio legato a eventi eccezionali in azienda. E come devono cambiare le imprese, devono cambiare anche coloro che le consigliano. Per questo la gestione del rischio, che è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo, deve cambiare adattandosi alle nuove tecnologie digitali e alla nuova realtà. Certo, si occupano di gestione del rischio sia le grandi grandi imprese che hanno al loro interno dei team appositi, sia le piccole imprese che praticano informalmente la gestione del rischio, ma al loro interno devono comunque avere delle persone formate che possano fare la differenza. E oggi parliamo della nuova professione di Risk Manager 4.0 che si deve formare per arrivare a fronteggiare i nuovi rischi. Ne parliamo con Giacomo Galli, Country Leader e Managing Director di Protivity, e Luca Emanuele Lanza, giovane manager e partecipante al Protivity Lab. Che cos'è il Protivity Lab e che cosa deve essere questo nuovo Risk Manager 4.0? Giacomo Galli. La consulenza aziendale è stato uno dei pochi business che non è mai cambiato. Non è mai cambiato di fronte a stravolgimenti, crisi, fino adesso, perché adesso il momento mi sembra piuttosto significativo. La tecnologia sta sicuramente influenzando il modo in cui noi lavoriamo e noi stessi dobbiamo rendercene conto. Quindi, dalla denominazione di lab, ma vera e propria, cioè laboratorio dove si sperimentano cose, abbiamo tratto l'idea di provare a sperimentare sulla nostra pelle. Quindi iniziare a dire come cambia il nostro lavoro. L'abbiamo diviso in quattro aree: il linguaggio, cioè come si comunica, poi come lavoriamo, quindi come si fa un progetto. Una terza area che riguarda l'innovazione, perché le idee sono la risorsa scarsa del consulente. E infine un'area che dovrebbe riguardare la distanza, quindi la possibilità di prestare consulenza non con una presenza fisica. E qui entrano in gioco le nuove tecnologie anche. Anche, sicuramente. Il primo problema è stato cercare di spiegare questi concetti a tutti quanti, in modo che tutti fossero coscienti di quello di cui si stava parlando. Allora ci è venuta l'idea di farlo facendo vedere dei film. Se noi parliamo di linguaggio, ci è venuto in mente un bellissimo film che si chiama Oltre il giardino, dove Peter Sellers veniva scambiato per il massimo, diciamo, genio dell'opinione, quando invece era un giardiniere che diceva due parole in croce. E quindi il gruppo si chiama Oltre il giardino, così come il gruppo che si occupa del come lavoriamo sono i sette samurai, quindi Akira Kurosawa. Mentre il gruppo che si occupa del lavoro a distanza è 2001, Odissea nello spazio. E il gruppo sull'innovazione, che è piuttosto cruciale per noi, infatti il mio collega qui fa parte del gruppo di innovazione, si chiama Mr. Hula Hoop, quindi fratelli Cohen, e anche come le idee vengono dalle cose. La visualizzazione la in questo momento abbiamo grazie a questi titoli di film e abbiamo capito un po' a che cosa servono i diversi gruppi di questo Protivity Lab, ma soprattutto a che cosa serve questo laboratorio in cui dovete formare i nuovi professionisti del Risk Management 4.0. Questi nuovi professionisti partono magari anche già dalle altre esperienze, come Luca Emanuele Lanza, che ovviamente è già un manager. Da che cosa è guidata la scelta di questa formazione, questa aggiunta di formazione per diventare un Risk Manager 4.0? L'intero progetto si chiama The Big Short, che tradotto è la grande scommessa. Da una parte, diceva Giacomo, è l'utilizzo di una serie di tecnologie che ormai si danno per date. Cioè anche i visori. I visori. I ragazzi della comunicazione dell'Oltre il Giardino stanno testando, perché questo è quello che facciamo nel lab, comunicano ai clienti, ma anche internamente, semplicemente a livello ottico, banalmente a fine riunione, invece del prendere la penna, mi dica il suo indirizzo email, numero di telefono, le password, ti metti il visore ottico e passando ti vedi con chi stai parlando, i suoi riferimenti, te li salvi. Quale formazione Giacomo Galli ha avuto e soprattutto quale trasferisce a questo nuovo Risk Manager? Io ho avuto una formazione molto, molto classica, devo dire la verità. Ho iniziato 30 anni fa a fare questo mestiere, quindi era un'altra scuola. Bisogna avere la mente aperta. Lei parlava di rischi, parlava di piccole e medie imprese che hanno di fronte categoria di rischio di vario genere. Se noi fossimo andati da consulenti a ragionare insieme ai nostri clienti sul rischio di pandemia, secondo me saremmo stati abbastanza, come dire, derisi. Come vedete, la situazione cambia radicalmente. C'è uno scambio di esperienza all'interno di questi laboratori? Sono andati a parlare con uno chef di cucina, perché alla fine è la gente che è capace di gestire delle risorse. Per parlare di comunicazione, saremmo dovuti venire qua a parlare con un DJ, no? Cioè, parlare con chi fa la radio. Un conduttore. Beh, a me piace la musica, per questo sono un po'. Certo. Noi dobbiamo metterci in gioco, e questo mettersi in gioco è il più grosso insegnamento che abbiamo tratto da questa esperienza. Luca Emanuele Lanza, da che formazione sei partito? Una formazione totalmente umanistica, quindi sono addirittura un legale. Quanto può guadagnare in più un risk manager 4.0 più gettonato rispetto a un risk manager consulente normale? Una forchetta e la seniority, un RAL come si dice. Un RAL? Beh, noi i nostri ingressi entrano sostanzialmente intorno ai 20-22 di RAL, come quasi tutte le società di consulenza. E poi qualificandosi si arriva a superare i 100 anche in poco tempo. Questo è un dato di fatto, è anche un escalation in questo senso. C'è anche un indirizzo email a cui possono mandare un applying form, un'adesione? Se loro entrano nel nostro sito protiti.it c'è la sezione di in assoluto per le assunzioni, collegata direttamente al nostro ufficio personale. Tenete conto che noi riceviamo qualcosa tipo 14.000 curriculum l'anno. E in ogni caso quello che è importante che voi segnalate è il fatto che ci sia ancora una grande richiesta di questa formazione, ed è anche per voi una formazione worldwide, perché avete sedi in diversi paesi e quindi ha un taglio mondiale, così. Mondiale. Noi facciamo parte di un gruppo che è ovunque, quotato negli Stati Uniti, quindi sicuramente la possibilità. Beh, due nostre ragazze sono andate nel lab di Chicago, sono state là quanto? Tre mesi. Per cui l'appello è: diventate risk manager 4.0. Il nostro grosso investimento è formare le persone. Vuol dire formare, ma poi anche perdere le risorse. Dobbiamo sopravvivere continuando a investire e gestendo questo rischio. Certo, sempre.